Storie italiane. Harris e la fattoria biologica. Un tempo, ai piedi del monte Forever Rest, c'era un villaggio chiamato Makuna, abitato da un'antica tribù di gnomi. In cima alla montagna viveva un allegro anziano di nome Harris che possedeva una fattoria biologica. Harris era un gran lavoratore. Quello non è Harris. Ho detto che era un gran lavoratore, non un pigrone. Ecco, quello è Harris. Un gnomo allegro e divertente che ama la sua fattoria. Le fattorie di Makuna forniscono frutta e verdura fresca e gustosa all'interno del villaggio. La sua frutta e verdura era sempre fresca e Harris la vendeva sempre alla gente del villaggio a basso costo. Queste verdure sono così fresche! C'è della magia nella sua frutta e verdura! Sì, ed è anche molto gentile! Non cerca mai di imbrogliare le persone per fare profitti, a differenza del suo vicino Jonas, che vendeva le sue verdure per 3 volte il prezzo! Oh sì, mi sono dimenticata di Jonas. Se Harris è molto gentile, Jonas è l'esatto contrario. Un uomo avaro e avido. Jonas prima era l'unico agricoltore biologico nel villaggio di Makuna e ne approfittava molto. Gli abitanti del villaggio non avevano scelta fino a quando Harris non aprì il negozio. Tutti smisero di acquistare da Jonas e andarono da Harris. Quanto costano le mele? 2 mele per 4 monete d'argento. Stai scherzando? Dai, Rico, andiamo da Harris, la sua frutta è molto meglio. Se le cose continuano così, dovrò iniziare a cercare una nuova professione. Mi chiedo come la frutta e la verdura della fattoria di Harris siano sempre così fresche e crescano così in fretta. Oh, fratello Jonas, nessuno compra i tuoi prodotti. Stanno marcendo a forza di stare lì. Perché non ne doni un po' a questa povera anima? Non mangio niente da 2 giorni. Shoo! Vai via! Non sono qui per fare beneficenza. A differenza di Jonas, Harris donava spesso il suo raccolto della fattoria ai poveri che passavano dalla sua capanna. Ecco, Ronnie, prendi qualche verdura in più in modo da poter sfamare la tua famiglia. Se te ne serve di più, sentiti libero di tornare. Sei davvero un angelo sotto mentite spoglie. Che Dio ti benedica. Ma, all'insaputa degli altri abitanti del villaggio, il segreto dietro la qualità della frutta e della verdura della fattoria di Harris erano i suoi 3 aiutanti, Tom, Brock e Zook. La rugiada della montagna, insieme ai loro speciali fertilizzanti segreti, faceva sì che il raccolto fosse sempre fresco. Ma non è tutto. Al chiaro di luna cantavano e danzavano nella fattoria in modo che gli alberelli crescessero rapidamente. Il vecchio Harris ha una fattoria, io. Cantiamo e balliamo e gli alberelli crescono, io. Un giorno Harris ricevette la buona notizia che sua figlia, che era sposata e viveva lontano, aveva dato alla luce una bambina. Felicissimo di sentire la notizia di essere diventato nonno, Harris decise di andare a trovare sua figlia per qualche tempo. Chiese agli abitanti del villaggio di prendersi cura della sua fattoria e di raccogliere frutta e verdura quando ne avevano bisogno. Porta i nostri saluti a tua figlia! Mentre gli abitanti del villaggio salutavano Harris, Jonas era lì in mezzo a loro che pensava a come distruggere la fattoria di Harris. Ora che se n'è andato, questa è la mia opportunità di distruggere la sua fattoria. Gli abitanti del villaggio non avranno altra scelta che acquistare da me. Devo solo capire come farlo accadere. Gli abitanti del villaggio iniziarono a mangiare frutta fresca dalla fattoria di Harris e non si ammalavano mai. Tutti erano felici, tranne Jonas. Ah, Le persone continuano a non comprare i miei frutti, anche se questi frutti provengono dalla fattoria di Harris. Devo fare qualcosa stasera. Jonas andò dall'indovino per trovare una soluzione. Ciao, Jonas. Cerchi le risposte ai tuoi problemi? Sì, voglio distruggere la fattoria del mio vicino. Danneggia i miei affari. Devi andare dall'unica altra persona la cui attività ha danneggiato. Chi è? Dimmelo, ti prego. Si chiama Dr. Stranger. Dr. Even Stranger. Avrà le erbe che ti serviranno per raggiungere il tuo obiettivo. E con quelle presto pioverà frutta e verdura per te. Oh, grazie. Jonas andò a incontrare il dottore per elaborare un piano malvagio. Hey, come va, Doc? Non ci credo. Finalmente un paziente. Dimmi, Jonas, quale male ti porta qui? Sono qui per qualcosa di meglio. Che cos'è? Un modo per portare più affari per entrambi. Ah, che cosa hai in mente? Prendiamo alcune delle tue erbe magiche e di notte, una volta che i piccoli aiutanti di Harris vanno a dormire, spargeremo quelle erbe in tutti i campi e distruggeremo i suoi raccolti. Più tardi quella notte, quando l'intero villaggio dormiva, Jonas si intrufolò nella fattoria di Harris e sparse le erbe magiche in tutto il campo. Ora gli abitanti del villaggio non avranno altra scelta che comprare verdure da me. La mattina dopo, quando gli abitanti del villaggio andarono a raccogliere frutta e verdura, invece della frutta biologica, trovarono un campo sterile. Che cosa è successo al raccolto? È stato distrutto. Cosa facciamo adesso? Come nutriremo le nostre famiglie? Lasciati senza scelta, gli abitanti del villaggio dovettero acquistare le loro provviste da Jonas a un prezzo 3 volte superiore. Quando Harris tornò da casa di sua figlia, gli si spezzò il cuore nel vedere una sterile terra al posto della sua fattoria biologica. Abbiamo aggiunto fertilizzanti ogni giorno. Abbiamo annaffiato il campo regolarmente. E anche cantando canzoni. Eppure niente ha funzionato. Cosa facciamo? Non vi preoccupate. Ho qualcosa per noi. Ho preso del fertilizzante magico dalla fattoria di mia figlia. Si dice che ridia vita ai raccolti appassiti e che moltiplichi la loro crescita. Perfetto. E così Tom, Brock e Zoc sparsero il fertilizzante in tutto il campo e le innaffiarono. Questo dovrebbe risolvere il problema. Proprio quando ebbero finito di innaffiare il terreno appena fertilizzato, il fertilizzante magico si mescolò con le erbe magiche nel terreno e così la terra iniziò a tremare con grande forza. Oh no! Un terremoto! Correte al riparo! Corri! No! Aspettate! Non andate! Gli abitanti del villaggio iniziarono a correre verso le loro capanne. Tra il caos e il panico si sentì una specie di grugnito dalla montagna. E gli abitanti del villaggio fissarono increduli, mentre frutta e verdure iniziarono a fuoriuscire dalla cima della montagna. Stan piovendo frutta e verdura! Wow! Sembra che l'indovino avesse ragione! Sì, raccogliamoli! All'improvviso, gli abitanti del villaggio smisero di aver paura e iniziarono così a raccogliere la frutta e la verdura che cadeva dal cielo. Questo ha un sapore fresco esattamente come quello della fattoria di Harris. Questo è un miracolo. Anche Jonas corse e, come il resto degli abitanti del villaggio, iniziò a raccogliere frutta e verdura. Questo compenserà le mie perdite. Voglio assaggiarne un boccone per vedere cosa c'è di così speciale. Ma il destino aveva qualcos'altro in serbo per Jonas. mentre dava un morso, questo si trasformò in sabbia. Che cosa è successo? Jonas raccolse un altro frutto per dargli un morso. Dammelo! Non serve a niente! Si trasformerà in sabbia! E così Ronnie prese un morso dalla mela e tutto andò benissimo. Mi sembra abbastanza buono. Che cosa? Perché diventa sabbia quando io lo mordo? Proprio in quel momento, Ronnie si trasformò magicamente nell'indovino. Cosa? Chi sei? Sono l'angelo della buona fortuna, Felicity. E quando ti ho incontrato prima, mi hai detto di come volevi distruggere la fattoria del tuo vicino. Volevo che tu imparassi che se desideri il male per qualcuno, il male tornerà a te. Quindi devi sempre essere gentile e fare cose buone per gli altri. E cose buone ti accadranno in cambio. Jonas si vergognava incredibilmente del suo comportamento e voleva scusarsi per i suoi errori. Andò immediatamente da Harris, che era nella sua fattoria. Harris, sono stato un terribile vicino e un terribile amico. Sono stato io ad aver avvelenato la tua fattoria. Sono venuto per chiedere il tuo perdono e per vedere se desideri coltivare e vendere frutta e verdura insieme? Va bene, amico mio, ti perdono. Sei davvero un uomo gentile. Non avevo capito niente di te. Andiamo e cominciamo a lavorare i nostri campi, va bene? E così Jonas e Harris ora avevano il doppio della terra su cui coltivare i loro raccolti e insieme con Tom, Brock e Zook. Cantavano e danzavano e vendevano il loro raccolto alla gente del villaggio. Il vecchio Harris ha una fattoria, ia ia oh. Cantiamo e balliamo e gli alberi li crescono, ia ia oh.